Una quantità di donne e di uomini. 21 marzo 1923. Durante la notte venne Vittorio B da me, mi guardò triste, non diede alcuna risposta e se ne andò. 22 marzo. Mi svegliai all'una e mi sentii dire, vuoi aiutare questi? Come hai aiutato me? Io accesi la luce, ed ecco che vidi accanto al mio letto il parroco santo. Non posso dire di sicuro perché egli era ormai sparito. Allora vidi per la prima volta che cosa c'era ancora lì. Una quantità di donne e di uomini. C'era di nuovo anche Vittore. Era una cosa molto pesante, ma se ne andarono presto. Non potei contare quanti erano. 23 marzo di notte, ai nuovo, rimasero a lungo, sono 16. Io, si prega per voi, non dovete venire più. Allora Vittore dice, noi dobbiamo. Io, e chi lo vuole? Nessuna risposta. Essi si fermarono ancora un poco, mi guardarono tutti e poi se ne andarono. Vennero tutte le notti, ma non c'è niente da fare con loro. Io prego e dopo un po' essi se ne vanno. 26 marzo. Sono soltanto 9, del tutto sconosciuti. Domando, dove sono gli altri? Ma non ricevo risposta asterisco. Asterisco nota. Domande che esprimono soltanto curiosità e desiderio del sensazionale, non ricevono risposta. Il lettore potrà constatare ripetutamente questo fatto. Ora questi sono 9. Vengono tutte le notti. Non è pesante. Io prego e dopo un po' essi se ne vanno. 29 marzo. Tutti e 16 sono di nuovo qui. Una di loro che non conosco mi viene molto vicina e dice, ti ringraziamo. Io non ho il coraggio di toccare la sua mano, lei mi stese ambedue le mani. Io domando, potete far Pasqua in cielo? Essa dice, alla luce, molto chiaramente, non poté dire altro. Allora mi vengono tutte vicine, non comodo, io aspergo con acqua santa, ed ecco subito spariscono. Strano che i 16 adoperavano ben poco spazio. Stava davanti a me un piccolo mucchietto eppure erano figure grandi e piccole. Colei che mi parlò era molto giovane con una espressione amica, un vestito nero, una sciarpa bianca. Tutte erano vestite da lavoro.